ti serve. Per quanto in realtà io potrei anche andarmene, perché ho un co-conduttore cosico, occasionalissimo, e non ti avvicinare troppo, che sono sicura che saprebbe fare benissimo le mie veci e anche le tue. Un cocco spaziale cazzone, pazzesco. Non si dice cazzone. Non si dice. Dice abbiamo... coxone. Coxone. Ecco. Quindi qui dobbiamo metterci dei bip. Iniziato malissimo. Malissimo, malissimo. Però senti che bella voce che ha. Subito ammonito. E lui si chiama Coso Spaziale. Ah sì? Per darti una misura, giusto così, Per cui da qui partiamo. Adesso vediamo se sei capace. Lui è capace di misurare il bagno, quindi direi che anche lui a tema. Ma sai di cosa parliamo io, Coso e Natalia? No. Parliamo di cucina e cucito. Cucina e cucito, ho capito. Bravi. E invece tu perché non sei qui? Sto misurando un bagno. Sì, ma stai misurando un bagno e poi c'è anche un'altra cosa che ti tiene molto impegnato e lontano dagli studi radiofonici. Sì, effettivamente la gallerista mi ha telefonato prima, ma stavo misurando la cucina e ho detto non posso parlare, sto misurando la cucina. Ah, stai misurando gli interni della galleria dove andrai a installare? No, sto misurando gli interni di un appartamento dove andrò a abitare. Che comunque l'arte trova casa e le certo. Misure contano. Sì, effettivamente c'è bisogno anche di fare queste cose qua. Il nostro co-conduttore occasionale cosico stanno entrando nei ritmi del corpo. Sono subito andato in ansia sul fatto che le misure contano. Le misure, nella loro misura, nella loro durata. Se il tempo è poco, un po' ci avvantaggiamo, però anche nel poco, insomma. Scusami, Coso, ma posso mai dire siamo niente. In fascia protetta, volevo dirtelo. No, dice anche vaffanculo. Ma non è proprio protetta, cioè voglio dire, voglio vedere un bambino che alle 8 di sera ascolta Radio Città Fujiko, dai, obiettivamente. Tutto questo dipende dai genitori che ha. Ah sì, certo, cioè sarebbero dei bei disadattati. Questa tipo Coso. Tipo me. Tipo Coso, tipo i Coso figli. Hai dei cosini. Ho dei cosini. Sì, no, ma i miei figli sono abituati a sentirmi bestemmiare. Dobbiamo ripartire da capo con la registrazione, non si può, per così diamoci un contegno coxico e spaziale, e quindi questo è il 204esimo coxo, tu non ci sei perché in settimana inauguri una mostra, sabato inauguro una mostra, sì, venite a Ferrara? Ma anche sì, si faccia lo spris buono. Io mi sa che lavoro, però... Ah beh, anche io lavoro. Io no, ad esempio. Ok, allora ti mandiamo Coso, che molto spazialmente arriverà lì, magari anche coi cosini. Vengo coi cosini. E la cosetta. Sì, e anche la cosa che mi sopporta viene, tipo ogni tanto. Ah, okay. È raro, però ogni tanto viene. Beh, insomma, sono in quattro anche loro, quindi magari si potrebbe nascere qualche cosa di simpatico tra te e lui, non lo so. No, dico... Tipo la domenica pomeriggio con le cose terrificanti. No, prossime conduzioni coxiche e formato famiglia, così siamo sicuri che non vi fate fare figuracce. Perché ci sono le cosette che poi vi esatto, ci quei sgridano. Gesti che non vanno detti. E ci sgridano dopo. Stefano, allora noi poi ti menzioniamo, grazie per essere stato qui con noi, grazie, che l'ho detto con grazie lo te che, lo dici tu. Che mi hai telefonato. E buone misure, saluta la famiglia. E grazie. E noi continuiamo con un brano. Per e poi magari prima o poi riusciamo anche a fare un coxo insieme, prima o poi. Dubito, anche perché abbiamo poi il problema istituzionale, credo. Ah sì? Poi ma non è nessun problema. Va bene. Tanti un bacio. Coxi settimanali. Ciao. Ed eccoci nel vivo del 204esimo Coxo. Senti questi effetti speciali, Hai sentito che roba, solo... Meravigliosa. Qui nello studio finestrato, ma in realtà... Ma ci sentiamo? Ci stiamo sentendo? Sì, pochino, ma ci stiamo sentendo. Alziamo pure il volume, sì, che... Ecco. Okay. Il cococoso sta acquisendo estremi grandi strumenti. Grazie per essere qui e grazie per questa avventura, perché questa è una sorta di Coxo esperimento. Siamo sempre nello sperimento, grazie a te, Fedra. E grazie al Coxo, a Coxo Spaziale, grazie, e grazie a Radio Città Fujiko, e grazie a Pasquini, e grazie, grazie, viva e viva Lea Lea, però... Soprattutto a chi ascolta. Sì, è vero, che ci chiediamo spesso, ma chi sarà? Forse Giffo che qualche volta ci ascolta, va bene, ma queste sono altre questioni. La questione sperimentale è che, incontrando Natalia e parlando delle sue attività, che al momento sono principalmente incentrate nella cucina e nel cucito, io ho avuto la sensazione che ci fosse dell'interconnessione. Allora l'ho invitata alla presenza del cococoso, coxico, a cercare di capire cosa c'è di interconnesso. Alla fine abbiamo pensato lì per lì. Alla fine il cibo nutre da dentro e il cucito abbraccia da fuori. Quindi una cosa interna, l'altro fa i perimetri quasi. Esatto, l'abito è come una seconda pelle. Mm. Ed è una nostra protezione, ma nel caso degli umani è molto di più. È un codice. Sì, è un codice, ma è tante cose. È parte della nostra cultura habitat. Cultura abitare. Io l'abito, per me l'abito è abitare. È vero. Tu abiti la tua pelle, ma abiti anche un abito, dopo abiti anche una casa. Mm-hmm. Però la prima cosa che abiti dopo la pelle è l'abito. Vogliamo aggiungere qualcosa? Sono terrorizzato. Stavo pensando come mi sono nutrito negli ultimi 20 anni. Come mi sono abitato negli ultimi 20 anni. Ecco, tutto questo potrebbe servire a tutti noi per riflettere su come ci abitiamo. Mm. Dentro e fuori. Esatto. E mi piace un sacco questa cosa dell'abito che abita ed è abitato. Questo sì, è la prima volta che lo realizzo come connessione. Grazie, grazie mille. Prego, una nuova cosa, sinapsi è un mio esperimento degli ultimi 15 anni. E quindi tu, da quanto tempo capita che ti occupi di queste due cose? Allora, professionalmente io cucino da 7 anni. Che comincia a fare una relazione seria. E anche gli abiti, professionalmente dal 2010. Quindi sono partiti proprio insieme anche? Abbastanza insieme. Tutte collegate a delle persone che mi hanno nutrita in questo senso e mi hanno fatto crescere. Mi sta venendo in mente qualcosa sulla questione dell'abito, però sfugge, viene e va, quindi dobbiamo... Quando arriverà la prendiamo. Sì, la questione è anche che tu, se non erro, se si può dire... Fai anche la costumista. Si può anche dire, anche se non è, io non mi considero una costumista, però io sì, lavoro in diverse produzioni. E questa cosa di vestire, di vestire uno spirito immaginario, un personaggio che deve entrare, essere abitato nel corpo. E questo, no? È il punto forte, secondo me, degli abiti. Io ti spiego come ho iniziato a interessarmi di abiti. Io nasco come nelle arti visive. Sì, anche performative. Prima di tutto arti visive. Ok. Dopo crescendo qualcosa mi mancava. Mi mancava il movimento, mi mancava lo spazio. Quindi ho iniziato prima di tutto a ballare. Dopo che ho iniziato a ballare, quando sono venuta, mi sono trasferita in Italia, ho studiato un corso sperimentale dell'Accademia dell'indirizzo di scenografia, che era progettazione per lo spettacolo. E mi sono laureata con una tesi sperimentale sull'abito. E per me la ricerca era, ed è tuttora, il movimento del corpo dentro l'abito. E questo anche in scena, perché l'abito per me è scenografia anche. Uh-huh. E quindi è un linguaggio in più che uno utilizza anche nella drammaturgia. Secondo me, aggiungerei, è scenografia anche in senso quotidiano, perché allestiamo il nostro essere all'interno di un determinato rapporto. A quel punto volevo arrivare. Ci sembra il brucaliffo a questo punto. Sì, che... No, però a proposito dell'abito e del corpo che ci balla, possiamo ricordare David Byrne dei Talking Heads, quando in Stop Making Sense ballava dentro il suo abito gessato, azzurro mare, e lì si vedeva come il corpo si muoveva all'interno, di una sorta di sistema che lo rivestiva. Bisogna rivederlo, io non me lo ricordo neanche mica. Io me lo ricordo tanto. Lo linkiamo su www.cocosa.com. Linkiamolo assolutamente. Per favore. A Bologna nell'81, a Parco Caserme Rosse, che è qua di fianco. E quindi... Quindi, insomma... Ma vedi il Cococoxico coso come... Il Cococoxico ricorda, fondamentalmente. No, vero, perché era lì che si faceva questa sigaretta elettronica con tutti questi vapori da brucalifo, però è venuto fuori a puntino. Bravo, vedi che ho fatto bene a invitarti. E giustamente, come è il ruolo di Pasquini, intervenendo fa saltare completamente il filo del discorso. Però io lo posso riprendere. Prendiamolo. Perché il riprendere era come nel quotidiano: noi rappresentiamo dei personaggi e i nostri abiti, e per me sono anche quello, ti raccontano come sei oggi, ti raccontano la storia che hai vissuto. Per esempio, a me piace moltissimo prendere degli abiti vecchi di qualcuno che li ama particolarmente e trasformarli in qualcosa, dargli una vita nuova, no? Però allo stesso tempo vividi i ricordi, no? Questo sì, è il nostro racconto quotidiano. Esatto. Pensavo anche alla questione del ruolo sociale, perché la veste è molto correlata e cioè innervata nel ruolo sociale. Prima venendo in qua parlavamo del tailleur. Di come questo ci ha costretto per degli anni a essere più fragili e vulnerabili nella fossa dei leoni. Esatto, cioè credendo anche di essere le più forti. Non solo i taglieri, anche i tacchi, pensiamoci, perché ma le il taglier scarpe va col tacco décolleté, tacco 7-10, insomma preda facilissima di qualsiasi bestia che stia in giro, anche di inciampi o quant'altro. Insomma, per entrare nel mondo maschile ci siamo scelte una divisa, in qualche divisa, modo l'abbiamo scelta, direi. Una divisa che ci metteva più in difficoltà di questi altri, con queste belle scarpone a pianta larga che stavano belli tranquilli seduti col pantalone largo. Però ci sono anche dei ruoli maschili che ti obbligano a vestire in un certo modo in cui non ti ci riconosci. Ad esempio, cercare di fare l'avvocato con la giacca e con la cravatta, vai avanti per 2 anni e poi molli tutto. Perché? Non tanto perché non ti piace fare l'avvocato, ma perché la giacca e la cravatta proprio non ci stai dentro ed è impossibile. Non riesci a respirare. No, e accade, perché non sono solo le donne costrette a vestimenti, no? E a camuffamenti complicati, ma anche gli uomini. Magari rispetto ai nostri confronti sembra un po' meno, ma ne soffriamo lo stesso. Sono d'accordo. Pensa a quei poveretti che stanno mancando, simpatici operatori bancari che sono obbligati ad una certa divisa. Già, ad una certa routine. E non è neanche così seduttiva quanto il tailleur e il tacco 10-12. Possiamo provare una correlazione, tipo l'abito sta al ruolo sociale come il cibo sta... Dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Ecco. Fino a un certo luoghi punto. Comuni. Beh, a me hanno spessissimo detto, fin da piccola, parla come mangi. Ho finito per mangiare come parlavo. Il che, vabbè, è un po'... Tu parli bene. Disse l'argentino. No, va bene. Però questa è una cosa che la lasciamo un po' misterica. I conoscitori del coxo sanno di cosa sto parlando. Ma voi che siete qui così, anime perse, anime care. Non tanto perse, però ritrovate forse. Sì, e quindi proviamo a fare questo parallelo, oppure riflettiamo ascoltando un brano e poi magari riprendiamo il discorso. Dai, tra un po'. Dovremmo riflettere un po'. Ok. Daddy's allora ragazzi, io vi ho un po' fregato, perché in realtà, anche se non ci sono più le pubblicità, io ci tengo alla struttura, come sapete, sono un po' rigida, si vede, sono lì che bacchetto a destra manca, e quindi a questo punto ci vanno le... L'angolo della menzione. Proprio quella cosa lì che hai detto mentre stavo andando il jingle, perfetto. E allora, visto che sei stato così spavaldo e pronto, cominci tu. Sabato 20 gennaio, ore 18. La mostra di Pasquini e Mustafa Sabak a Ferrara. My Jam or Love Hell. Stefano W. Pasquini e Mustafa Sabak. Maria Livia Brunelli, Home Gallery. Una doppia personale a cura di Massimo Marchetti che mette in discussione l'idea stessa di mostra e gioca sul concetto di casa-galleria che Maria Livia Brunelli conduce da 10 anni. L'indirizzo è MLB Maria Livia Brunelli Home Gallery, Corso Ercole, primo d'Este, numero 3. E il cap lo lasciamo perdere, si vede che questa menzione l'ha scritta Stefano. Ferrara. Comunque, bravo, è andato bene, no? Con questa bella voce, eh? Sempre più cuoricino. Continuiamo con invece la nostra super mega galattica ospite protagonista, che è infatti sempre sabato 20. Sabato 20 gennaio alle ore 18.30, Vedova Mazzei, Unexpected Landscape, Paesaggi Inaspettati. Per la mostra intitolata Paesaggi Inaspettati, c'è la nuvola. Simeone Crispino e Stella Scala, meglio conosciuti come Vedova Mazzei, utilizzano una vasta gamma di media, tra cui scultura, pittura e installazioni, affrontando un unico tema da tanti punti di vista. Esso si può definire un paesaggio politico con fraintendimenti letterali, nel caso del neon, la traduzione di un fatto accaduto in un olio, e la creazione di una narrativa intorno ad un oggetto fallato, o il ritratto di un capriccio romantico è impossibile. Galleria De Foscherari, via Castiglione. Numero? Però è famosa. Lo sappiate, sapevatelo, lo trovate su internet, giusto? E poi sì, esatto, che poi c'è anche il link che da domani su www.coxospaziale.blogspot.com sarà fruibile per tutti voi. E adesso c'è l'ultima menzione, che in realtà proprio ultima non è, però abbiamo un po' una sorpresa, che siccome si intitola così... Io la farei leggere di nuovo al nostro coso spaziale. Sabato 20 gennaio, ore 18.30. Tutti nudi. Cicappotto, Dado, Joyce, Rusty, Saf. A cura di Fulvio Chimento e Luca Ciancabilla. Tutti nudi è una mostra di arte contemporanea, disegnata idealmente per un museo pubblico, ispirata da principi strettamente connessi al writing, ma allestita all'interno di una galleria privata, Labs Gallery, via Santo Stefano 38, Bologna. Wow! Ma veramente, che menzioni di eccezione, ma anche tu Natalia, veramente. Me la sono cavicchiata, però... E comunque dicevo che ci siamo, ma non ci siamo, perché... Dopo questo piccolo brano avremo al telefono Tihana Maravic del collettivo Ateliersi, che ci parlerà di quello che sta succedendo proprio ora nel loro spazio. I get a lump in my throat and a saw coming down the aisle. I got the wiggles in my knees when she looked at me and sweetly smiled. There she is again standing over by the record machine. Oh, looking like the model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I was thinking, she's in the mood, no need to break it. I got a chance, I ought to take it. Now if she'll dance, we'll make it. Come here, Queenie, let's shake it. Go, go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, go, little Queenie. There she is again, standing over by the record machine. Looking like the model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I still think, if it's a slow song, we'll omit it. And if it's a rocker, son, that'll get it. And if it's good, I'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, go, go, little Queenie. Ciao Tihana, come andiamo? Ciao Fedra, ciao, bene, sono qui fuori dal teatro perché dentro il teatro c'è uno spettacolo, io sono fuori per poter parlare con te. Sì, infatti io ti ringrazio perché purtroppo, sai, non potevo essere lì per questioni di ubiquità, e però sono molto curiosa di sapere perché poi questo lavoro, Nikola Tesla, se non sbaglio, noi del Cox lo stiamo seguendo da un po' ed averlo in città, che poi replicando anche domani magari... Ci dai qualche anticipazione? Sì, guarda, noi Ateliers siamo felicissimi di essere i primi a Bologna ad ospitare questo spettacolo, che è uno spettacolo oramai storico dei Mask Teatro di Forlì, che ha girato già molto, ecco, però è la prima volta che abbiamo la fortuna di averlo in città. E devo dire anche che la città ha reagito benissimo e quindi in pochi giorni sono stati venduti tutti i biglietti di due serate che abbiamo immaginato, abbiamo dovuto aggiungere una terza replica, ecco. Ah, quindi, molto interessante, sarà domenica la terza? La terza ci sarà sempre domani avremo due repliche, una alle 18 e una alle 21. Ah. E quindi per quella delle 18 dovrebbero esserci ancora i posti disponibili, quindi affrettatevi assolutamente a prenotarvi. Certo, infatti qua i miei co-conduttori mi chiedevano dove da Ateliersi, in via San Vitale, il numero civico? Numero 69. Quella porta che ogni anno viene ridipinta, la porta del sì in occasione di Billy Bol Bull, e adesso abbiamo un bellissimo ballo, un abbraccio, una danza abbracciata che si vede fuori dalla porta. Tra l'altro sono particolarmente curiosa perché a quello che ho capito è questo spettacolo ha un assetto scenico estremamente significativo e anche in linea con la significanza stessa dell'argomento. Quindi mi chiedo come si sia incastrato negli spazi del sì. Sì, allora questo spettacolo si chiama Nikola Tesla Lectures ed è in realtà uno spettacolo conferenza, quindi che all'interno della narrazione sulla vita piena di miti, leggende, una vita misteriosa che è la vita di Nikola Tesla, dello scienziato serbo poi naturalizzato americano, all'interno di questa narrazione Lorenzo Basocchi, l'autore anche performer dello spettacolo, ha inserito degli esperimenti veri e propri che lui, le cui macchine che ha costruito lui stesso. La ricerca di Lorenzo Basocchi, che è anche un ingegnere, è durata circa 15 anni, la ricerca su questi esperimenti di Tesla, e quindi noi quello che vediamo è proprio la dimostrazione di alcuni più famosi e più importanti esperimenti, come Tesla Coil, che è una macchina che produce fulmini, oppure Wireless Transmission of Power, che è un esperimento di trasmissione di energia elettrica senza fili. I Mask Teatro sono famosi per le costruzioni sceniche, architettoniche, visionarie, dettagliatissime, particolari, quindi lo potremo vedere insieme domani, ecco, come poi dopo questo si è inserito dentro lo spazio. Però lo spazio del sì è uno spazio neutro che ha potuto benissimo accogliere questa lezione, che poteva essere anche un'universitaria, diciamo, però all'interno di comunque una macchina teatrale. E infatti forse questa è anche la sorpresa che di vedere di nuovo come quale altro volto ci rivelerà questa volta lo spazio del sì, di Ateliersi. Tigana, ti ringrazio tantissimo per aver e ti lascio andare a tornare allo spettacolo, quantomeno al post. Grazie a te Fedra, grazie a tutti gli ascoltatori e arrivederci presto qui domani per Nikola Tesla con i Musk oppure per uno dei nostri prossimi appuntamenti, ce ne sono tanti davvero nei prossimi mesi, febbraio e marzo. E spero che avremo occasione di dialogarne anche magari in maniera più specifica. Un abbraccio, volentieri. Grazie mille. Grazie, ciao. Psst, carino, ti ho già fatto l'occhiolino, tu venire più vicino. Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia-cia-cia. E balla il cia-cia della medusa. Chi l'ha provato più non riposa. Ballalo subito, non è una scusa. Se non lo ballo sarò scontrosa. Abracadabra mi tesoro. E vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia-cia-cia. Mi piacciono i ragazzi, un tipo un po' geloso. Mi ha appiccicato in volto questo sguardo odioso. Affascinante ma difettoso. Chi mi guarda non lo sa, non lo sa, non lo sa, ma divento un baccalà. Non sono un mostro, non sono velenosa. Soltanto un po' nerviosa. Questa mattina mi sento elettrica e se mi tocchi sarò fantastica. Quanti ragazzi vorrei abbracciar. Balla il cia-cia della medusa. Sono scompigliata, sono confusa. Mi ha messo un aspide per capello e adesso in testa mi sento uno zoo. Non guardarmi, non guardarmi negli occhi per favore. Già ti ho pietrificato il cuore. Gli occhi no, gli occhi no, gli occhi no. Odio un altro baccalà. Non mi irritare, fatti tentare da questo ciaccia tentacolare. I serpenti sono una scusa. Se non lo balli sarò scontrosa. Però formosa, ma generosa. Medusa mente fusa. Una ciaccia con la medusa. Chi l'ha provato più non riposa. Abracadabra mi tesoro. Vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia-cia-cia. Non guardarmi, non guardarmi negli occhi per favore. Ma solo ba, solo ba, solo ba, già mi tesoro. Eccoci un altro che c'è caduto. Nemmeno un po' con lui va baciacciato. È restato tutto ghiacciato. Oh mamma, mamma, come devo fare? Sasso dovrò abbracciare. Non sono un mostro, non sono velenosa. Soltanto un po' nerviosa. Adesso basta, voglio un uomo vero. Che non mi guardi, che non sia sincero. Adesso basta, voglio un uomo vero. E un giorno lui verrà, ne sono sicura. E non avrà paura. Mi prenderà i capelli e sarà una festa. Sento che perderò. E quindi cosa, domani sappiamo bene dove andare, ad Ateliersi, a vedere la replica di Nikola Tesla con tutte quelle macchine spettacolari. Io ho visto delle foto, sono troppo curiosa. Voi avete visto le foto? Nessuno. Solo una. E allora domani su www.coxospaziale.blogspot.com le foto, anche i link per andare a curiosare sul lavoro di Musk. Invece noi adesso, dopo le menzioni che vi ho infilato lì in maniera così... subdola, direi. Esatto, sì. E anche un po' austro-ungarica. Riprendiamo il nostro tema. Eravamo arrivati, il tema principale che ci ha portato Natalia e su cui abbiamo confezionato questo 204esimo Coxo è quello del nutrimento, no, ma è cucina e cucito. Esatto. Abbiamo parlato molto di cucito. E poco di cucina. Esatto. Anche perché tanto di cucina si parla in questi ultimi tempi. E facciamo un po' fatica a dire qualcosa di molto intelligente. Però, in realtà, ragazzi, io c'ho un'altra sorpresa. Perché dall'altra parte della cornetta... Questa sera con noi c'è un'artista che si chiama Claudia Fabris. Ci sei ancora? Sì, ci sono. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta al Coxo, grazie per essere grazie. Con noi. E lei è con noi perché fa un lavoro che sull'alimento c'entra anche nei termini in cui abbiamo parlato prima. Diciamo che nutre lo spirito. Proprio no, dici. Cioè, no, dico proprio l'hai spiattellata lì così e voleva un po' di suspense. Però nutre lo spirito, però insomma c'è. Sto co-conduttore occasionale, sto giro un po'. Certe volte ci piglia, dobbiamo metterlo un po' a rodaggio. Vabbè, vero? Dai, rodiamoci. Ok, adesso. Che austro-ungarico, questo mood austro-ungarico, veramente. Faccio un giro in bagno adesso. Faccia il muro. Intanto vorrei che Claudia ci raccontasse questo suo lavoro. Sì. Sì, allora diciamo che la performance in particolare si chiama La Cameriera di Poesia, è nata nel 2011 e è letteralmente un ristorante di poesia itinerante, dove nel menù do alle persone dei menù esattamente come ad un ristorante, con gli antipasti, piatti unici, i dolci. E poi nell'ultima pagina ci sono le parole sottosale, che è il vocabolario che sto scrivendo da 3 o 4 anni. E le persone ordinano quello che vogliono ascoltare, e dopodiché io prendo le ordinazioni, appunto, poi gli do delle cuffie wireless molto buone, ho 50 cuffie, ho iniziato con 3, e poi li servo dalla mia postazione microfono computer mixer dal vivo, li servo in cuffia. È un pasto comunitario, per cui ordinano assieme, diciamo, ordinano, io gli do dei limiti che possono ordinare tipo 5, 6, 7, dipende, antipasti, 5, 6 piatti, 7 piatti, 2 piatti unici al massimo perché i piatti unici sono molto corposi, 3 dolci, i dolci sono cantati dal vivo, e le parole, 7, 8, 9, la seconda parola, dopodiché io gli offro durante il servizio. C'è la carta dei vini che è dedicata a Maria Angela Gualtieri, c'è il coperto, apparecchio il tavolo con i testi di Franco Arminio, e poi c'è un menù di suoni che io registro vivendo, sia suoni naturali che suoni a seconda di cose che incontro, persone, c'è un menù di poeti dialettali che registro andando in giro per l'Italia, insomma ogni tanto la mente si riposa ascoltando dei suoni. E diciamo le persone, dura più o meno un'ora e un quarto, un'ora e mezza, a seconda, e le persone si abbandonano, se posso li metto distesi, se no stanno seduti, si abbandonano Claudia, e alla fine dimenticano la fame. Ma Claudia, è meraviglioso, è un lavoro estremamente articolato, complesso, poi sì, stratificato sì. Negli anni. Come nasce questa idea? Dunque è nato, in realtà l'idea è nata nel 2004. Poi l'ho realizzato per la prima volta nel 2011, però l'idea è nata nel 2004 perché avevo fatto un recital con l'università, un recital sulla poesia gallega. Cos'è? E facendo questo della Galizia, sulla poesia della Galizia, sì, con il lettore dell'università mi era stato chiesto di fare questo lavoro e io avevo fatto, cioè facendolo, dopo che l'avevamo replicato diverse volte, l'ennesima replica con Silvio Barbiero, che è un attore. abbiamo detto vabbè, se lo rifacciamo però facciamolo diverso. E quella volta lui aveva appena aperto i carichi sospesi, che era un circolo ARCI, insomma, sì, è il fulcro del teatro, esatto, di ricerca che c'è a Padova. Sì, diciamo sì, adesso forse sì, uno dei fulcri, al tempo era, c'era anche il TAM, c'era il CIPRO, sì, adesso forse sì. E, diciamo, era appena aperto, l'avevano appena aperto, e allora c'era venuto, mi ricordo, eravamo al bar e abbiamo detto vabbè, però se lo facciamo, facciamolo diverso, e abbiamo creato questa situazione in cui io e lui eravamo vestiti da camerieri, e c'erano i tavoli in scena e le persone, c'erano delle tovagliette su cui le persone poi mangiavano, che erano tutte graficamente composte con i testi, noi prendevamo le ordinazioni dei testi dello spettacolo e li servivamo però a giorno, così come uno spettacolo con l'amplificazione, stando in mezzo a loro, e tra un servizio e l'altro di poesie gli offrivamo da bere e da mangiare, le tortiglie spagnole che avevo fatto 4 giorni di tortiglia una puzza, no, perché io ho usato molto il cibo io nel mio lavoro, il cibo vero, dico, non quello. Da quando sono venuti fuori tutti gli chef, così, da quando è diventata una cosa un po' fighetta il cibo, io ho smesso di usarlo, sono passata a livello, come dire, così poetico, ma prima lo usavo tantissimo nelle installazioni, nelle performance, dico. Mannaggia gli chef mediatici, mannaggia. No, mi hanno rotto le... No, scusa, ma questa cosa mi ha fatto proprio innervosire, per cui mi sono un attimo ritratta. L'ha fatto diventare una cosa un po' stupidina, secondo me. Vabbè. Allora in quella circostanza lì mi sono ricordata di quanto mi piaceva fare la cameriera, che è un lavoro che io ho fatto sul serio per diversi anni, di quanto mi piaceva prendermi cura delle persone, cioè recitando la maschera della cameriera mi sono trovata così a mio agio, ero più brava a fare l'attrice da cameriera che da attrice quasi, e ho detto ai ai ai, guarda qui, e questa cosa è entrata nel cervello. E da lì un po' alla volta l'idea l'ho asciugato, perché mettermi a fare quintali di tortiglia o di cose ogni volta era un incubo, cioè portare in giro quell'ambaradan lì era un incubo, quindi è diventata sempre più l'idea più semplice. Quando invece mi è venuta però l'idea del mezzo tecnico, quindi della cuffia, mm-hmm, ed è stato poco prima di ricrearlo, alla fine del 2010, ho detto è arrivato il momento, perché attraverso questo mezzo io posso mettere la persona in un grado di ascolto, perché in verità è un lavoro sull'abbandono all'ascolto, uh-huh, così profondo, così intimo, esatto, e posso lavorare sulla parola in un modo tale, perché io non le recito le parole, mi faccio più suonare dalle parole, uh-huh, c'è un altro processo, non è che faccio l'attrice, mi metto a disposizione delle parole, è un po' un altro modo. In quella cosa lì succede che con le cuffie, il mixer, potendo lavorare sul suono in un certo modo, ho capito che forse potevo far riprovare alle persone esattamente lo stupore che provo io quando leggo certi testi, che mi sembrano proprio delle formule chimiche che hanno un'azione sulla realtà, perché c'era un periodo in cui leggendo certe poesie a un certo punto io sempre allo stesso punto provavo un brivido, come se fosse proprio una cosa fisica, non... Sì. Chimica, come hai detto tu, giustamente. Esatto, una formula chimica, proprio che quando sono nella sequenza perfetta succede qualcosa nella materia. E io volevo far provare agli altri questo stupore che provo sempre, e credo che con questo sistema, insomma, un po' succeda. Claudia, succeda. È bellissimo, perché solo a raccontarcelo noi siamo qui, abbiamo una finestra a specchio davanti e ci guardiamo e siamo tutti quanti tipo tutti sospesi. Sì, come si dice. Avete la follia. Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Le cene al buio. C'è, sì, un po' sì, infatti. Come atmosfera, come sensazione, sì, sì, sì. No? Cioè l'ospite che rimane un po' sospeso, viene portato fuori, lì in quel caso messo dentro uno spazio buio, gli viene servito da mangiare, e però proprio perché è cieco, ciò che mangia è completamente differente, e lo stesso tu lo metti in una condizione in cui ciò che ascolta ha un suono e dunque un rimbalzo all'interno completamente diverso, no? Perché genera una chimica differente. Sì, è proprio così. Ma infatti c'è una delle... Ora sto raccogliendo in un file le recensioni delle persone, cioè oltre a quelle ovviamente dei giornalisti, degli esperti, cioè. Uh-huh. Però sto raccogliendo invece i ritorni delle persone, perché poi la poesia in verità non è tanto frequentata. Sì. Cioè, tutti, la prima cosa che mi dicono è: ma io non leggo poesie, dico non ti preoccupare, non le legge nessuno. Le leggo io. fondamentalmente ovviamente non le legge nessuno, perché io credo che non sia stato fatto un buon servizio alla poesia negli ultimi 100 anni più o meno. No, cioè, se uno pensa che alla fine dell'Ottocento un ragazzo di 18 anni, se tu gli chiedevi cosa vuoi fare nella vita, una delle sue massime aspirazioni poteva essere risponderti voglio fare il poeta. Cioè adesso non viene in mente neanche ai poeti di dirti voglio fare quasi, il poeta. È quasi una vergogna, no? Andare no, ma è un pensiero, ma neanche una vergogna, c'è una cosa che non sta più nel cerebro, cioè è un pensiero al di là del possibile, non so come dire. Beh, se mio figlio dice voglio fare il poeta, lo randello, ad esempio. Dici? Cazzo vuoi no, fare? Perché? No, cioè, ma no, perché? No, però è interessante questa cosa. Allora, però secondo me è proprio perché è stato reso un servizio non troppo, certo, non troppo buono, diciamo, la poesia, perché un po' la si è isolata in una forma aulica e lontana dalla vita. Mentre prima era proprio una delle sostanze, cioè era proprio uno dei modi in cui le emozioni venivano. Diciamo che ha preso il posto della poesia la musica. Allora, Claudia, io sono entusiasta di questo collegamento telefonico e spero che veramente le cose ti portino a Bologna e di invitarti di persona. Adesso abbiamo il nostro co-conduttore coxico che fa il brucalifo con la sigaretta al vapore. Questo sì. è il suo modo anche di apprezzare questo momento radiofonico. Una nebbia, però il tempo è tiranno. Io volevo farti un'ultima domanda su questa parte del menù che erano le parole sottosale. Sottosale. Se è troppo articolato, rimandiamo a quando ci risentiamo. No, facciamo così, invece cioè, intanto ve ne leggo un paio, così vi fate un'idea. Dopodiché vi posso leggere la prima che apre il librino che ho stampato, pubblicato. Che fra l'altro tu hai presentato mercoledì scorso qui a Bologna, giusto? Sì, sì, in realtà ho presentato, allora, nella trasmissione radiofonica Il Lupo e il Contadino, cioè sono stata invitata e abbiamo parlato del mio lavoro, e poi ho fatto proprio una cameriera di poesia in una versione, diciamo, perché poi si adatta a questo lavoro, non distesi ovviamente perché era la libreria naturista, però sul suo palco abbiamo fatto una cameriera di poesia. Quindi, e ci sono sempre le parole sottosale perché di cui, fanno parte integrante del lavoro. Di cui ci regali un assaggino adesso. Sì, un assaggino, bravissima. Allora, la prima è questa, è una parola a cui sono particolarmente affezionata perché... adesso leggendovela capite che ha proprio una storia, c'è tutto un percorso dentro, e poi l'anno scorso è stato dedicato un festival intero a questa parola in provincia di Bari, a Corato, verso sud. Sta risvegliando, allora, si chiama... l'attenzione anche di quando ha detto festival subito il nostro conduttore ha detto forse lo so, vediamo se era abbandono quello. Abbandono, c'è dentro un dono ma non te ne accorgi mai. Deve essere una buona notizia che si traveste malamente tanto da sembrare cattiva. È la sola spiegazione possibile. Infatti un anno dopo aver scritto questa definizione ho trovato abbandonare, dal francese medievale abandonner, mettere a disposizione di chiunque. Okay. Io distinto la percepivo più così che di negativo, insomma. Sempre per la questione parla come mangi. Sarà. E a proposito, abitare, potremmo chiudere così questa trasmissione? Ah sì, con abitare, bravissima. Aspetta, l'avevo aperta. C'è anche, oppure anche con poesia. Abito, cioè. Abito, si indossa, ma è la nostra casa, il luogo in cui io abito. Nella Genesi, quando il Signore caccia Adamo ed Eva dall'Eden, prima di farli uscire compie un gesto assai bizzarro. E il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie delle tuniche di pelli e li vestì. È davvero poco probabile che questa sia la nascita della moda nella storia dell'uomo, con un tale stilista a glorificarla nei secoli a venire. Le tuniche sono i nostri corpi, tuniche di pelle per vestire l'anima e farla entrare nella materia. Il paradiso è dello spirito, fuori è la materia con la sua carne. Abito è composto dalle prime due lettere ebraiche, Aleph e Bet, le stesse che sono in alfabeto. E se fosse perché l'alfabeto ce l'abbiamo in corpo, e se fosse perché è il corpo il nostro alfabeto, con quella sua lettera scritta nelle cellule ad una, il DNA? PS. Martha Graham, la più grande danzatrice statunitense del XX secolo, madre della modern dance, diceva che il corpo è un indumento. Il corpo è un indumento? Sacro. Ok, abbiamo avuto delle interferenze da Martha Graham, poi l'abbiamo desunto nonostante il mixer. Grazie, ma che meraviglia! Grazie davvero. Non prego. E allora intanto salutiamo e ringraziamo tutti in coro. Sono commosso. Eh sì, è per quello che non parlava prima. Coso. Ah, commosso, il coso. Coxo è commosso. Aspetta, ma io ti posso, aspetta, c'è un altro istante o no? Siamo proprio addirittura d'arrivo? Siamo addirittura d'arrivo e se ti facciamo questo istante poi salutiamo tutti insieme. Va bene, perché volevo convincere invece il nostro conduttore che se suo figlio vuol fare il poeta non è così male. Brava, brava. Dopo glielo dico pure io. Ti leggo la definizione di poesia. Scusa. Dal verbo greco poieo, creare, fare, agire, comporre. Conferma l'ipotesi biblica che il mondo sia stato creato parlando e sia semplicemente una poesia. Pensiero che talvolta ci assale quando siamo immersi nella natura incontaminata. Se ne ricordi chi fa poesia credendola solo un raffinato esercizio intellettuale in cui compiacersi. Se ne ricordi chi la deride e la considera il passatempo d'anime distratte, delicatamente astratte. Se la poesia non genera mondi in cui è possibile vivere, è bello e desiderabile, non è poesia. In quest'ottica la politica dovrebbe essere la forma più alta e pura di poesia mai praticata dall'uomo. Tranquilla Pedro, non importa. Però mi ha fatto venire Grazie. In mente Bruce Chatwin nelle Vie dei Canti, in cui raccontava come è stato creato il mondo. Bello. Ovvero dagli stregoni che camminavano nelle vie appunto nelle vie segrete, e dove si fermavano a sognare, ciò che sognavano veniva creato, si realizzava. Certo. E io invece penso che se più persone condividono questo pensiero, forse un futuro politico per il nostro paese è possibile. Non finire la frase, lasciala lì. Sì, dai. Ce la possiamo fare. Grazie Claudia. Grazie Claudia, grazie Coso, torna a co-condurre quando vuoi. Grazie Natalia Mazzer. Grazie a te Pedra. Dopo 5 anni. Potrebbe essere. E torna anche tu quando vuoi, magari a fare il co-conduttore quando Coso sarà ospite. Sì. Oppure volentieri. Quando Claudia sarà ospite. Volentieri. Che sarà molto presto, spero, perché comunque Bologna la bazzichi. Sì, io in verità sto moltissimo al sud, però sì, ci sono delle intercapedine. Adesso, in quanto tu ormai sei stata sul Cox una volta, questo significa che c'hai l'abbonamento, puoi venire quando vuoi. Perciò, tornerò, vabbè. Se capitano cose, cosucce a Bologna o nei dintorni, in Emilia Romagna, facci sapere che noi magari lo diciamo a chi ci ascolta, che sicuramente vorrà venirti a conoscere di persona. Assolutamente. Volentieri, molto volentieri. Baci. Ciao. E con questo il 204esimo Coxo si conclude. E abbiamo già finito. Sì. Sì. E pensare che non è neanche in diretta. Ho detto pochissime cose. Ma in diretta dura di meno, secondo me. In diretta dura pochissimo. Va bene, un altro Coxo registrato per voi. Ciao! Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Coxo spaziale!